Salva Danaio di Deborah Rosciani. Una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Il tema di oggi ci piace proprio tanto, fa abbastanza arrabbiare tutti i consumatori all'ascolto, e però forse proprio per questo motivo è utile dare il vademecum più appropriato per potersi comportare in questo settore. Allora, l'infedeltà è un diritto del consumatore. Scopriamo però che essere infedeli in certi settori è molto più complicato che esserlo all'interno del matrimonio. Quante volte, soprattutto alla luce delle ultime liberalizzazioni, abbiamo scoperto che voler spostare, per esempio, le nostre principali utenze domestiche da un operatore ad un altro equivale ad intraprendere una delle strade più difficili che ci siano mai capitate. Il diritto di recesso è, dal punto di vista consumeristico, consolidato, ma nella prassi quotidiana chiudere e risolvere un contratto con un'azienda molto spesso risulta ai limiti dell'impossibilità. Capita un po' in tutti i settori, ma quello delle telecomunicazioni è diventato negli ultimi anni estremamente competitivo, è forse il terreno più problematico. Di tutto questo ieri si è occupato il Sole 24 Ore nelle pagine di Affari Privati in una vera e propria maxi inchiesta intitolata «Come disdettare senza strascichi dalle assicurazioni alla telefonia, dal credito alle utenze, tutte le procedure e i costi per recedere da un contratto». Un diritto che fa spesso i conti con i tentativi agguerritissimi delle aziende di trattenere i clienti. Allora, raccontateci un po' le vostre esperienze, arricchiremo così la panoramica che è già molto folta che Il Sole ieri ha presentato in queste due pagine. Raccontateci se vi è capitato di voler spostare la vostra utenza telefonica piuttosto che quella dell'energia elettrica, del gas, da un operatore ad un altro. Quanto ci avete messo? Quali sono stati gli aspetti più problematici, appunto, di questo contratto da recedere? 800 24 00 24, numero verde a vostra disposizione, 349 238 6666 invece è il numero che potrete comporre se volete mandarci dei messaggi. Un'occhiata rapidissima alla borsa: dopo i rialzi di ieri, oggi il mercato frena, abbiamo dei ribassi nell'ordine dello 0,2-0,3% complessivamente fra Parigi, Francoforte, Londra e Milano. Giornata che vede il petrolio sopra i 78 dollari al barile, vede il dollaro recuperare qualche posizione sull'euro a 1,4901. Ieri abbiamo avuto la giornata di nuovo record storico assoluto per l'oro a 1134 dollari l'oncia o giù di lì. Piazza Affari oggi punta su A2A più 1,85% in vista di un possibile alleggerimento da parte del governo delle maxi multe europee sulle utility italiane, un provvedimento che rassicurerebbe il mercato sulla distribuzione del dividendo da parte del gruppo quotato. Mediaset più 1,7%, prospettive positive per la raccolta pubblicitaria, anzi indicazioni positive sulla raccolta pubblicitaria 2010, Lottomatica più 1,66%, la ex Autostrade guadagna l'1,57% superando stamattina i 18 euro, Ansaldo più 1,48, Autogrill più 1,19%. Ribasso invece su Bulgari, che sta perdendo il 2,24%, ma anche qua ci sembra un freno abbastanza naturale aspettarsi, visto che il titolo del lusso ha guadagnato solo nell'ultima settimana il 14%, per cui una frenata era abbastanza fisiologico aspettarsela. Geox continua a perdere terreno dalla pubblicazione della trimestrale, anche oggi in calo di 1,5%, 1,5% di ribasso per Fondiaria, meno 1,38% per Italcementi. Ricordo che ieri Wall Street si è riportata ai massimi dal settembre dello scorso anno, perché sono arrivate buone indicazioni sui consumi, sulle vendite al dettaglio, e questo lascia ben pensare a come potrebbe andare la stagione natalizia. Noi però lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi: quanto è difficile recedere un contratto? Avete mai provato a cambiare gestore telefonico, chiudere un conto corrente o a disdire un'assicurazione? Negli ultimi anni, complici anche le cosiddette liberalizzazioni Bersani e l'ampliarsi dell'offerta sul mercato, sono sempre più numerosi i clienti che hanno deciso di abbandonare le vecchie utenze a favore di offerte più convenienti. Un'operazione semplice a parole, ma non sempre nei fatti. Decidere di recedere da un contratto, qualunque esso sia, può essere infatti estremamente complicato. Se è vero che la disdetta è un diritto previsto nel contratto stesso, le procedure da affrontare per recedere e cambiare utenza sono complicate e il più delle volte sono create ad hoc dalle utenze stesse per scoraggiare il cliente e disincentivare il desiderio di cambiare. Come? Attraverso ritardi, penali e clausole onerose. Basti pensare che nel biennio 2007-2008 l'antitrust ha emesso sanzioni per oltre 12 milioni di euro, di cui ben 8,5 nel settore delle telecomunicazioni, per pratiche commerciali scorrette, compresi gli ostacoli all'esercizio del diritto di recesso. Come fare allora? L'importante, come sempre, è informarsi e leggere bene tutte le clausole. Preferibilmente alla firma del contratto stesso, senza aspettare il momento della disdetta. È la seconda volta che lo faccio nel giro di pochi giorni. Prima di lanciare la scheda, mediamente presento sempre gli ospiti, anche oggi me ne sono dimenticata, ma risolvo subito. Intanto saluto e ringrazio la nostra Rossella Cadeo delle Sole 24 Ore che ha curato e coordinato queste due pagine molto ricche di informazioni appunto pubblicate ieri dal quotidiano. Rossella, bentornata. Grazie, ciao Deborah, buongiorno a tutti. E ringrazio e saluto per essere con noi l'avvocato Ivana Nasti, direzione tutela consumatori della Agcom, l'autorità delle comunicazioni. Avvocato, benvenuto. Benvenuta, buongiorno. Anzi, bentornata. Grazie anche a lei. E alle 12.30 ci collegheremo anche con un altro esperto del Sole 24 Ore, della rubrica L'Esperto Risponde, un altro legale, l'avvocato Maurizio Di Rocco, che ci aiuterà soprattutto ad orientarci, per esempio, nell'ambito della disdetta dei contratti con le TV a pagamento, anche quello un altro bel ginepraio. Però, Rossella, io comincio subito con te. Avete affrontato a 360 gradi un po' tutti i settori d'impatto con i consumatori, le assicurazioni, le banche, le telecomunicazioni. Che cosa avete scoperto? Ce n'è almeno qualcuno di campo un po' virtuoso? Insomma, uscire da qualche settore è un po' più facile rispetto ad altri, oppure si comportano un po' tutti nella stessa maniera, non vogliono mai mollare i clienti? Sì, il cliente in effetti è un bene prezioso, l'abbiamo scritto nel nostro servizio, un bene prezioso. Il mercato è sempre più liberalizzato, ci sono delle normative che in realtà sono a favore del consumatore. Quindi il consumatore può muoversi, può cambiare da un'azienda all'altra, da un fornitore all'altro, però diventa sempre più prezioso perché ovviamente i consumatori sono risorse limitate numericamente. Mm-hmm. Settori più virtuosi, sì, direi forse questo dell'energia, l'energia, le utenze, anche perché grazie alla liberalizzazione del mercato domestico della luce dell'elettricità. Luglio 2007. Ora la pratica di recesso e di cambiamento da un fornitore all'altro viene gestita direttamente dal nuovo fornitore, quindi è il nuovo fornitore che si interessa presso il vecchio perché l'utente venga staccato, venga passato al nuovo fornitore. Mm-hmm. Senza distacchi proprio diretti del contatore, quindi non ci sono strascichi pratici. Però per il resto dobbiamo dire che quello che frena soprattutto la clientela, questi passaggi, è la scarsa conoscenza della normativa, dei diritti. Il fatto che molto spesso si sigla un contratto telefonico piuttosto che per una pay TV, piuttosto che per un conto corrente, senza leggere bene quali sono le clausole di recesso oppure di risoluzione anticipata del contratto. Per esempio si scopre solamente in un certo frangente che ci sono delle penali molto onerose da pagare, quello sicuramente è un aspetto che quando un contratto si firma non viene preso in considerazione. Sì, in realtà perché nel migliore dei mondi possibili si pensa di non dover mai cambiare perché il contratto vada ottimamente per tutti, invece spesso non è così. Sì, perché poi cambiano anche le esigenze dell'utente, cambia anche lo scenario, le offerte possono diventare più interessanti e quindi si trova qualche cosa di più interessante, più conveniente presso un'altra azienda, un altro fornitore. Quindi è chiaro che quando una persona cambia, magari l'ultima cosa che va a considerare è la pratica. Le pratiche, le modalità che bisogna seguire per il recesso. E in realtà l'azienda dovrebbe proprio, è obbligata dal codice del consumo, da una serie di altre normative, a fornire una nota informativa in cui chiarisce nel dettaglio quali sono le normative per i passi da fare per il recesso. Inoltre va ricordato che dopo la legge Bersani che del 2007 di ormai di più di 2 anni fa, tutte le penali, quegli oneri impropri che pesano sul recesso non devono più essere applicate. Però ci sono delle scappatoie attraverso le quali l'azienda molto spesso applica comunque una spesa che il cliente non che si viene aspettava. Praticamente nominata forse a volte banalmente in un altro modo. Noi ci ricordiamo benissimo proprio all'indomani delle liberalizzazioni di Bersani quante puntate abbiamo dedicato per esempio alla chiusura del conto corrente, alle spese di chiusura del conto. Mediamente chi va in banca e vuole risolvere un contratto di questo tipo pensa di non dover tirar fuori neanche un centesimo per la risoluzione appunto del contratto di conto corrente, invece poi scopre che deve per esempio pagare le spese di tenuta conto che sono state maturate fino a quel momento, per cui non è esattamente un costo zero radicale, e quindi anche lì bisogna fare un po' di attenzione a volte anche a come passa l'informazione, bisogna essere molto chiari anche su questo. Un fronte molto problematico è quello delle telecomunicazioni. Avvocato Nasti, lei lo sa bene, visto che è impegnata appunto nella direzione tutela consumatori della Agcom. Il tema grosso in questo ambito è quello delle doppie bollette. Si lascia una società, crediamo di aver messo in piedi tutta la procedura corretta per recedere dal contratto e poi scopriamo invece o che la società ci attribuisce qualche errore, no, di comunicazione, per cui quella che vogliamo abbandonare non ci molla, continua ad inviarci bollette scatenando così un contenzioso dal quale non si riesce più ad uscire, a volte dei veri e propri tunnel, oppure insomma si fa un po' orecchie da mercante, anche lì non ci si comporta, la società non si comporta molto correttamente. Qual è la procedura che bisogna mettere in atto per aver sempre ragione nella risoluzione di un contratto con una società di telecomunicazioni? Intanto, per esempio, c'è uno specchietto molto chiaro che Rossella ha elaborato per Il Sole di ieri: rispettare con grande attenzione la tempistica, no? Certo. Avvocato Nasti. Bene, guardi, rispondo subito alla domanda, poi magari vorrei fare una riflessione di carattere più generale. Sì. Come fare per avere ragione, come fare per recedere correttamente bene. È importante leggere, secondo me, sempre le condizioni generali di contratto del singolo operatore. Vi è comunque una regola di carattere generale che è comunque pur sempre valida, che è quella di inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La delibera 664 del 2006 dell'autorità si focalizza su questo punto e in attuazione sia del codice delle comunicazioni elettroniche sia del codice del consumo stabilisce che la comunicazione di recesso può essere inviata anche mediante telegramma, fax, posta elettronica, e quindi in questo senso prevede una semplificazione della procedura, a condizione però che la disdetta sia poi confermata mediante una lettera raccomandata con ricevuto di ritorno. Per sì. quanto riguarda, ecco, posso dire che nella mia esperienza è sempre importantissimo inviare la raccomandata e conservarne copia. Mm-hmm. Comunque, ecco, quindi non solo conservare copia magari della lettera, quindi il contenuto della raccomandata, ma anche poi conservare l'avviso di ricevimento, cioè la ricevuta di ritorno che riceviamo dalle poste. Vi leggo una mail che è arrivata poco fa di un'ascoltatrice, Raffaella, che dice: mio papà è morto a fine luglio 2006, in pochi giorni il tempo di organizzare il funerale, ho inviato la regolare disdetta con raccomandata, ricevuta di ritorno e certificato di morte dei suoi contratti con Sky e con Fastweb. Sky ha disdettato subito senza addebitarci 5 giorni di agosto, che erano quelli in cui il servizio era stato, come dire, lo stesso fruito, ma c'era stato il funerale per cui comunque la persona era deceduta, per cui non ne poteva più naturalmente avvalersene. Fastweb da 2 anni continua ad inviare le fatture a mio padre, nonostante io abbia inviato ripetutamente il testo della raccomandata, il certificato di morte, la scansione della cartolina di avvenuto ricevimento, e adesso hanno cominciato una vera e propria come dire, battaglia con addirittura società di recupero crediti, sempre a lui in prima persona. Non so più che cosa fare, e ha anche ragione. Avvocato Nasti, posso tornare da lei, la Agcom, per questo caso? Senz'altro, quello che posso dirle è che ai sensi della delibera che ho citato prima, cioè la 664 del 2006, l'operatore che non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso non può addebitare all'utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso stesso. Quello che io consiglierei all'utente nel caso di specie è di sporgere una denuncia all'autorità. Comunque siamo quasi ai limiti della molestia, perché mi viene anche da dire adesso. Certo, come, questi sono casi estremi, però, davvero patologici. Sì, sì. Io però ecco, vorrei fare una riflessione di carattere generale, proprio agganciandomi a questo caso limite, direi. Intanto, grazie alla legge Bersani, l'attenzione delle istituzioni di vigilanza e regolatorie si è concentrata ancora di più su questo tema, che quindi possiamo dire mai come, come finora è oggetto di, appunto, dicevo, di attenzione e di disciplina. E poi un'altra riflessione, è vero, le problematiche relative al recesso sono aumentate, soprattutto, come lei giustamente diceva, nel settore delle comunicazioni elettroniche. A fronte però di questo aumento dobbiamo registrare anche un notevole aumento della scelta. Sì, sì, ma infatti paradossalmente tutto questo viene a galla proprio perché la concorrenza è molto più intensa, sì. Sì, e quindi indubbiamente dobbiamo istituzioni di vigilanza e di regolazione dobbiamo monitorare, dobbiamo cercare di capire il fenomeno, quali sono anche gli eventuali bachi nella disciplina positiva vigente. Mm-hmm. Però dobbiamo tener conto appunto che c'è sicuramente è aumentata moltissimo la scelta, il diritto di scelta del consumatore. E poi un altro dato vorrei fornire, quello relativo al numero dei reclami. Sì. Dato che ci dimostra che tutto sommato sulle circa 60.000 segnalazioni e denunce che arrivano all'ufficio gestione segnalazioni e vigilanza dell'autorità, quindi su circa 60.000 denunce annue, solo 700 sono arrivate negli ultimi 8 mesi in materia di recesso. Ah, ecco. Ecco, quindi è un fenomeno tutto sommato contenuto. Indubbiamente io capisco che l'utente che vive questo problema lo vive male, perché ovviamente è vittima di un'ingiustizia. Ho capito. Allora, peraltro, a proposito del recesso, al di là, diciamo, della procedura che si vuole attivare per poter definire, concludere e chiudere un contratto, ci sono poi anche altre problematiche che in qualche maniera ruotano intorno alla procedura della disdetta, ma che hanno un'evoluzione diversa, come il caso che ci vuole raccontare Marco. Marco, adesso glielo faccio raccontare, però devo anche dare il benvenuto ad un altro legale che ci supporterà da qui alla fine di Salvadanaio, l'avvocato Maurizio Di Rocco, collaboratore dell'Esperto Risponde del Sole 24 Ore. Avvocato, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Grazie anche a lei di essere con noi, ha dato una gran mano a Rossella Cadeo appunto per costruire queste due pagine che indicavamo prima, e magari avvocato Di Rocco ci darà qualche indicazione, per esempio per le procedure da seguire per dire ciao, arrivederci o comunque anche addio, perché anche quello può essere, alla PTV, lei si è occupato anche di questo. Sì. Sulle pagine del Sole, però vorrei sentire Marco da Milano prima. Marco, buongiorno. Buongiorno, allora, grazie per la trasmissione. Ci dica un po' cosa le è successo. Niente, a me, io sono uno di quelli che è caduto nel tunnel di questi operatori telefonici che mi hanno fatto una bella offerta e io volevo passare da un operatore a un altro, però poi dopo questo non è mai avvenuto fino a quando io poi ho mandato ovviamente la raccomandata e mi arrivano queste benedette bollette. Ho riprovato a ricontattare gli operatori per vedere di parlare con un commerciale, dato che la mia era un'azienda e non potevo rischiare. Ah, ecco, quindi questo, cioè, quello che a me premeva al momento in cui poi non sono usciti era appunto di preservare l'attivazione del telefono, perché a me serve per lavorare, ecco. Certo, quindi concretamente che cosa ha fatto? Ha tentato di spostare le sue utenze da un operatore ad un altro, non da quello che capisco dall'anticipazione che mi hanno scritto le ragazze del centralino, ancora non riesce a ricevere le bollette dell'operatore al quale è subentrato? No, io non sono, io ho ricevuto le bollette dell'operatore a cui avrei voluto, avrei voluto andare, però non avevo mai attivato il servizio, e quello, il mio problema era appunto quello. E dal momento in cui ho cominciato a ricevere questa bolletta di una cosa mai attivata, che loro avevano promesso si sarebbe attivata in 15 giorni, proprio una cosa... No, mi scusi, non ho capito. Allora, lei cosa ha fatto? Ha chiesto praticamente la migrazione da un operatore ad un altro, giusto? Questa migrazione si sarebbero, di questa migrazione si sarebbero occupati loro. Poi dopo, a distanza di 2 settimane, non riuscivano a farmi migrare perché evidentemente l'altro operatore non mi faceva resistenza. Faceva resistenza. Allora sono intervenuto io, ho ottenuto questo numero di migrazione, gliel'ho passato, però neanche con questo numero io poi sono riuscito a passare. Fino a quando ho mandato fax chiedendo spiegazioni in merito, poi è passato un altro mese da questa situazione, dove poi mi è arrivata una bolletta di un servizio mai attivato. Ripeto, io quando ho visto questa bolletta ho mandato subito la raccomandata, certo, dicendo che non avevo più intenzione di andare avanti, dato che non era mai venuto neanche l'operatore a montarmi la fatidica DSL e tutto quello che mi avevano promesso. Allora Marco, faccio nel limbo. E chissà, la cosa terribile è chissà quando ci rimarrà Marco, speriamo naturalmente il più breve tempo possibile. Avvocato Di Rocco, invece prima di andare alla PTV la inauguro subito su questo caso, se lo ritiene opportuno. Allora, è un problema di comunicazione fra soggetti delle telecomunicazioni e Marco, che ha avviato una procedura sbagliata per attivare un nuovo abbonamento e chiudere il precedente. Cosa può essere successo in questo caso? Generalmente, adesso, senza poi riferirsi al caso specifico, ma credo che il problema sia riferito anche a quello, oltre che a tanti altri, i problemi sono in genere derivati dal problema di comunicazione, cioè spesso si fa affidamento sulle modalità di comunicazione che ci vengono indicate dagli stessi operatori, quando però poi, che può essere posta elettronica, possono essere comunicazioni di adesione date solo verbalmente per telefono, quando poi in realtà l'unica forma concreta di tutela che ha un consumatore è quella di fare tutte le comunicazioni per iscritto, o attraverso raccomandata o attraverso fax, anche oltre quello che viene indicato come sufficiente dallo stesso operatore. Questo perché poi al dover ricostruire quello che è successo si creano altrimenti sempre problematiche rispetto a quello che si voleva dire e quanto è stato invece recepito dall'operatore. Quindi ecco, il consiglio generale che si può dare a tutti quanti è quello di scrivere sempre con modalità che assicurino la ricezione della comunicazione e la venuta spedizione per quanto riguarda la nostra fonte, insomma, quanto riguarda la parte nostra. No, tra l'altro poi anche quando in ogni caso si attivino tutte le procedure corrette per iscritto, come lei diceva avvocato, e si scopre di aver ragione completamente nel proprio comportamento, magari si ha anche diritto ad un risarcimento per il tempo speso, per le spese sostenute, eccetera. E poi lì comincia un'altra bella pratica, ecco, un'altra serie di contenziosi da cui non se ne viene più fuori. Il problema poi è quello che molte aziende contano proprio sul fatto che, trattandosi comunque di questioni, diciamo così, bagatellari, quindi con un contenuto patrimoniale tutto sommato basso, al di là dell'elevato contenuto emotivo che può avere la questione, molta gente poi, molti clienti, molti utenti poi abbandonano ancora prima la prosecuzione delle richieste di risarcimento, proprio perché il proseguire comporta delle spese che non vengono, e quindi rimangono con il vecchio operatore. Esatto, o rimangono col vecchio operatore, oppure comunque sopportano delle situazioni sgradite fin quanto possono, per poi semplicemente recedere dai contratti, chiudere i contratti e costituire ex novo in altre direzioni senza più fare migrazioni. Comunque è molto interessante quello che lei diceva sul fatto che la nostra unica forma di tutela è mettere tutto per iscritto. Quello che mi indispettisce un po' è che comunque, pur mettendo tutto per iscritto, perché io non ho nessun motivo di dubitare del comportamento di questo tipo adottato dai consumatori, è che le imprese comunque ritengono di dover fare quello che vogliono e quindi non si sentano per nulla minacciate, no, poi dalla procedura corretta. Rossella, allora 700 ne indicava nell'ultimo anno considerato l'avvocato Nasti, e però ci sono anche altre vie per contestare. Sì, ce ne sono tante di vie per contestare. Prima di tutto il cliente pensa di rivolgersi all'azienda stessa, quindi qualche volta, nella maggior parte dei casi ci auguriamo, il disguido di servizio viene risolto dall'azienda stessa, quindi in questi casi forse non compaiono i casi che vengono risolti in un primo caso, in un primo passo. E poi c'è questa procedura obbligatoria perché che le cause di le liti, le controversie in ambito di telecomunicazioni vengano risolte attraverso l'intervento dei Corecom, che sono i comitati regionali delle telecomunicazioni. Ecco, poi forse c'è ancora una bassa conoscenza, una scarsa conoscenza da parte degli utenti, dei consumatori, di queste autorità, di questi sportelli ai quali ci si può rivolgere per reclamare. Poi ci sono le associazioni dei consumatori che hanno la loro buona dose di reclami, quindi il recesso, almeno anche stando alle lettere che riceviamo come sportello reclami e come esperto risponde al nostro giornale, il recesso, la disdetta non riuscita sono una bella fetta, insomma, di contenziosi. Allora, Marcella da Milano, buongiorno. Ci dica tutto. Voi con questa trasmissione mi avete proprio spaventata. Mi spiace, perché qualche volta qualcuno ce lo dice anche: avete un modo di trattare gli argomenti da terrorismo psicologico, ma ci mancherebbe altro. L'importante è che lei abbia fatto tutte le procedure corrette anche per attivare. Io ho accettato di passare da un gestore di gas, di riscaldamento, a un altro, che mi ha fatto intravedere cospicui risparmi. Però mi hanno spiegato che avrebbero fatto tutto loro la procedura, che io non dovrei fare niente. Ma l'avvocato, ho sentito che dice, mandate comunque una lettera. Parlavamo però delle telecomunicazioni, che è un fronte un po' più problematico. I gestori che si rimpallano il cliente. Esatto, però con il mercato libero nel settore dell'energia dovrebbe funzionare tutto un po' diversamente. Avvocato Di Rocco, visto che lei ha scritto anche su questo, sulle Sole 24 Ore, anche se poi il passaggio avviene nel settore del gas, per quello che riguarda Marcella, diciamo che gli operatori in questo ambito sembra dialoghino un po' meglio. Sì, perché su questo particolare argomento sono state delle normative recenti che hanno, per favorire una premessa, da noi la liberalizzazione del gas è arrivata piuttosto tardi, quella dell'energia del gas, nonostante sia un processo che è iniziato molto tempo fa. Quindi per accelerare e facilitare tutti i passaggi successivi, le modalità di recesso sono state dovute indicare con grande chiarezza. E nel caso dei clienti non domestici, cioè dei clienti, degli utenti comuni, diciamo così, prevede che sia il nuovo gestore che si occuperà di tutte le pratiche necessarie per completare la migrazione, informando del recesso anche il vecchio gestore. Quindi il cliente, nel caso specifico del gas, viene esonerato da tutta una serie di passaggi proprio al fine di rendere più agevole il passaggio da un gestore all'altro. Però anche in questo caso il consiglio è quello di verificare poi a posteriori che questi passaggi ci siano stati, comunque insomma tenere un minimo le antenne dritte per... Certo, secondo lei Marcella entro quanto tempo potrà dare un giudizio rispetto alla conclusione con successo di questo passaggio? In termini di tempo è difficile da dire, diciamo che nell'arco di 3 mesi dovrebbe sicuramente avere contezza se il passaggio è stato fatto correttamente oppure no. Ciò non toglie che comunque per esperienza poi diretta, nonostante questi passaggi siano stati curati da nuovi gestori, ci sono stati casi in cui i vecchi gestori hanno continuato per un certo periodo a mandare delle bollette, imputando il fatto che il nuovo gestore aveva fatto le cose tardivamente. Ecco, quindi si crea certe volte con questo meccanismo un po' lo scaricabarile tra il nuovo e il vecchio gestore. Per quello dico, stare sempre allerta, bisogna pretendere che il nuovo gestore faccia quello che deve fare. Se ci sono problematiche, cominciare a scrivere. Torniamo sempre lì. Allora, invece abbiamo Maria al telefono, che ci aveva scritto una mail questa mattina piuttosto articolata. Allora io, piuttosto che leggerla, ho preferito contattare Maria e farci raccontare esattamente quello che sta accadendo al circolo di cui è socia, giusto? Sì, è giusto. Ci dica tutto, una cosa piuttosto complessa anche per lei. Sì, abbastanza. Dunque, noi siamo abbonati con Fastweb da qualche anno e, come dicevo nella mail, da un punto di vista tecnico è andato sempre tutto abbastanza bene. Però il canone che paghiamo lo riteniamo un pochino alto rispetto a tutte le altre offerte che ci sono in giro. Abbiamo richiesto... Sì, poi non ci dimentichiamo, Maria, mi scusi se la interrompo, che ovviamente magari le aziende fanno per certi periodi delle offerte commerciali strepitose per accaparrare nuovi clienti, dei vecchi si dimenticano e per loro non c'è mai niente, per cui anche questo insomma... Certamente, però la stessa Fastweb normalmente fa delle offerte inferiori ai nuovi entrati piuttosto che ai vecchi abbonati, perché tanto oramai sono acquisiti, poi non ti rilasciano. Che devo dire, anch'io un anno fa ho sottoscritto l'abbonamento con loro, proprio adottando esattamente, quindi è stato un bel pesce che pure non è caduta in questa rete, ma giustamente se ne approfitta. Detto questo, lei era cliente e a un certo punto ha detto: quello abbiamo che pago è troppo alto. Il codice migrazioni che ci è stato mandato, ci hanno fatto un'offerta che non andava bene perché erano solo 10 euro di differenza e va bene. Quest'anno a maggio abbiamo ricevuto un'offerta dalla Vodafone, l'abbiamo vagliata, l'abbiamo ritenuta equa abbastanza e abbiamo aderito, abbiamo sottoscritto un contratto, loro ci hanno assicurato che non c'erano problemi per passare a Vodafone. E va bene, qui è iniziato il calvario perché telefonate, loro ci assicuravano, loro è la Vodafone, che in breve, entro 48 ore vediamo la risposta, eccetera, eccetera. Finché ho chiamato anche Fastweb e Fastweb dice: ma è tutto bene, tutto bene. Alla fine, per farla breve, abbiamo andato. Esatto, anche perché devo salutarla, Marisa. Quindi come si è conclusa questa faccenda? Si è conclusa che loro ci hanno mandato, la Vodafone, una fattura adesso di 36 euro per un servizio mai attivato. Eccoci qua. Mai attivato. Allora Maria, io devo salutarla, purtroppo sono un minuto di tempo e però qua vi devo proprio promettere che ci ritorniamo su tutti questi argomenti, perché le telefonate di questa mattina neanche vi sto a dire quante siano. Avvocato Nasti, necessariamente devo far concludere a lei la GCOM anche su questo caso. L'inoltrare una fattura per un servizio mai erogato, ma insomma, ma perché? Ma perché? Perché, perché l'ha detto lei e la giornalista nell'articolo di ieri, perché gli operatori ovviamente hanno interesse ad acquisire clientela, però piuttosto concentriamoci sui rimedi. Ce la fa in 40 secondi, mi rendo conto che la sto... Sì, no, da parte mia posso dire, ecco, rivolgetevi all'autorità, al contact center, ma anche inviateci denunce attraverso l'apposito modello, perché noi facciamo la nostra parte, quindi noi vigiliamo, le sanzioni in materia di servizi non richiesti sono davvero molto elevate, quindi costituiscono un ottimo deterrente e abbiamo avuto ottimi risultati in tal senso rispetto agli anni passati. Sì, anche se abbiamo l'impressione che qualche volta continuino e che qualche volta forse anche il potere sanzionatorio, pur essendo molto efficace, è un po', magari se fossero aumentate le sanzioni, magari servirebbero anche un po' di più a rappresentare questo deterrente, che poi è quell'obiettivo. Non riesco ad andare oltre, ma ci ritorniamo sulla difficoltà di disdettare contratti di qualsiasi tipo, magari rimettendo insieme la stessa squadra. Grazie a Rossella Cadeo, l'avvocato Ivana Nasti e l'avvocato Maurizio Di Rocco. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata.